Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Che cos'è l'ira? Che cos'è la rabbia? Come nasce e come si sviluppa? In questa puntata speciale di Linee d'ombra del sabato sera vi raccontiamo, come sempre facciamo in questa mezz'oretta, l'essenziale delle storie seriali che vi raccontiamo durante la settimana in chiusura di Linee d'ombra, quindi nel tardo pomeriggio, più o meno a metà pomeriggio. Verso le 4 vi raccontiamo ogni giorno un pezzo di storia di vita di una persona che ha deciso di raccontarci, di regalarci la sua storia e che noi suddividiamo in categorie, ovviamente. Parliamo di vizi capitali, quindi in questo caso raccontiamo dell'ira. E raccontiamo la storia di Giorgio Bazzega, che è figlio di Sergio Bazzega, che è stata una delle vittime delle Brigate Rosse. E Giorgio ci racconta a puntate, questa è la seconda settimana e lo ringraziamo moltissimo, come è nata, come è cresciuta la rabbia dentro di sé. Allora Giorgio, facciamo un passo avanti. Da quando è successo, dal 76, dal 15 dicembre 76, a quando tu hai deciso di vendicarti? Sì. Da bambino? Un'infanzia felicissima, perché ho avuto proprio un'infanzia, cioè a parte quella roba lì, felice, perché noi siamo sempre stati una famiglia non troppo numerosa. Poi negli anni, cioè, siamo sfigatissimi, perché negli anni siamo stati falcidiati da assassini, malattie, cazzi, robe, siamo rimasti in 4, in 5, che siamo strauniti ovviamente. Un gruppo di amiche di mia mamma tanto unite, tant'è che io per queste non le chiamo amiche, sono le mie zie e i loro figli sono i miei cugini e loro e io per loro uguale, cioè si è creata una famiglia allargata quasi. Dopo che papà è venuto a mancare, la nostra casa è sempre stata piena di persone. Oltre ai familiari e agli amici di mamma, in casa venivano molto spesso alcuni colleghi stretti di papà. Fra questi c'era il dottor Vito Plantone, che è stato anche questore a Palermo negli anni degli attentati a Falcone e a Borsellino. Era una persona straordinaria, professionalmente e umanamente. Io gli volevo un bene dell'anima, perché lui ha voluto a tutti i costi papà nella sua squadra. E quando papà è stato ucciso, lui ha vissuto tutto con un senso di colpa e un grande senso di responsabilità nei miei confronti. È stato incredibile. I primi tempi ce l'avevamo sempre in casa. Per me era lo zio Vito. Tutti i Natali che Dio mandava in terra, finché non è mancato, mi veniva a prendere e mi faceva fare un giro con la macchina della polizia. Può sembrare una cosa ridondante, ma lo zio Vito lo faceva davvero per me. Sapeva che io associavo la macchina della polizia a papà e tutte le volte era un'avventura che mi emozionava moltissimo. Dopo il giro in macchina salivamo sull'auto privata e mi portava in un enorme negozio di giocattoli, sempre lo stesso, e mi diceva: scegli il regalo che vuoi. Adesso se può sembrare materiale, ma non era tanto quello, era proprio la sensazione che mi dava lui. Poi era un uomo molto sicuro, che dava molta sicurezza. Scusa, mi sono emozionato, che gli voglio tanto piacere, un ricordo di una persona. Beh, qui ero tanto affezionato, ero veramente tanto affezionato, e quest'uomo ce l'abbiamo avuto sempre tanto vicino. Fra le tante persone che hanno cercato di colmare il vuoto lasciato da mio padre durante la mia infanzia, un posto speciale ce l'ha Mario. Lui era il migliore amico di papà, arrivava dall'antiguerriglia ed è quello che mi ha anche fatto fare pace con la figura di mio padre. Perché poi sai, cresci, io poi dopo poi racconterò meglio magari tutte le devianze, i problemi che ho avuto, e a un certo punto facevo la battuta perché tutti mi dicevano: ma tuo papà di qui, tuo papà era bravo, tuo papà. Io dicevo: beh cazzo, mi hanno adottato, ditemelo, mamma, mi avete adottato. Se io sono un cazzaro, mi piace divertirmi, mi piace far casino, guarda, tutto serio. Invece poi una sera, neanche da troppo, forse una decina d'anni fa, ma meno forse, e a cena è venuto lui, siamo andati a cena io e lui, abbiamo iniziato a chiacchierare, siamo andati in giro fino alle 4 del mattino praticamente, mi ha riportato in albergo a chiacchierare e raccontarmi di papà e mi ha detto: guarda che papà era un cazzaro come te, cioè poi sul lavoro ovvio che era serio, ma quando era fuori fa esattamente come te. E la terza figura maschile di riferimento è stata lo zio Paolo. La sera eravamo sempre a casa sua, che poi abitava nel palazzo accanto. Lo zio Paolo era un pugliese di Cerignola che parlava milanese meglio di un milanese. Aveva uno stile che sembrava Jean-Paul Belmondo. Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando, grazie al mio lavoro nel mondo della pubblicità, ebbi un invito per due persone da parte di un cliente per vedere il Gran Premio di Monza dai box. Io mi portai mio zio Paolo perché sapevo che la sua passione era la Formula 1. Lui faceva il tassista. Lui faceva il tassista, ma aveva una classe innata. Cioè, lui sembrava veramente un Agnelli, cioè non so come dirti, lui aveva una classe incredibile, tant'è che io mi ricordo, non me lo dimenticherò mai, che eravamo lì, eravamo nei posti veramente fighi, pieni di gente, lui si è presentato, aveva sta camicia, il suo cash call, il maglione, il jeans, il mocassino, ma proprio figo, capello rasato, è stato uno dei primissimi che quando ha perso i capelli invece di tenere se li era rasati o cortissimi, e stava sto occhio azzurro, sembrava Jean Paul Belmondo. Io mi ricordo lui che mi dava di gomito, uè, guarda come la me guarda quella lì. O io ti giuro, c'erano tutte le sciore che mi guardava lo zio Paolo. E io ho passato una delle giornate più belle della mia vita, per me e per lui. Tanto che per anni lui lo raccontava a tutti, anche ai suoi clienti in taxi. Diceva, mio nipote Giorgio mi ha portato nei box a Monza. Breakfast in cemetery, boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, the bird way. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Then go a separate way. Your hem, you say, let's stroll down Martin Way, pick plums, abandoned farm, who let norms come to harm? We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, then go a separate ways, cover me with rain. Walk me down the lane, I'll drink from your drain. We will never change, no matter what they rain. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go a separate way. Cemetery, picnic on wild berries, French toast with molasses, croquet and baked Alaskas. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Cover me with rain. Ho avuto un'infanzia splendida, anche la maestra. Avevamo una maestra che ancora adesso sento. Era una maestra giovane, in una classe difficilissima nel quartiere popolare della Barona. Per cui io ho una famiglia straordinaria, mia zia, la moglie, infanzia meravigliosa. Okay. A scuola bene, la maestra che ancora adesso la sento, cioè la maestra che tu dici, la maestra del libro cuore. Avevo un compagno che ogni mattina arrivava a scuola con la faccia segnata, perché il padre tornava a casa ubriaco e lo menava. Però in quella classe, grazie a questa maestra, eravamo tutti amici. Ci volevamo bene e non si emarginava nessuno. Lei ci faceva vivere anche delle situazioni pesanti con leggerezza. Ancora adesso, quando ci rivediamo, ripercorriamo quei momenti come momenti belli. E tutto grazie a lei, a Irene, la nostra maestra. Dunque, sono stato fortunato durante l'infanzia. Io l'unica cosa triste di quegli anni che ricordo era o quando andavo in gita, che arrivavano tutti con il loro papà, mentre io arrivavo con la mamma, oppure quando giocavo a pallone. finché una mia cugina più grande non si è fidanzata e allora veniva il suo fidanzato a vedermi a giocare a calcio. La mia tragedia è che io all'inizio giocavo veramente scarso, uscivo, mia mamma, come sei stato bravo? Io, ma cazzo, ma come fai a dire che sono stato bravo? Cioè era una roba proprio tremenda. Invece poi, grazie a Dio, quando è arrivato Nico, che era il marito di mia cugina appunto, che ha iniziato a seguirmi lui, iniziava a darmi anche due consigli e io infatti ero affezionatissimo per questa roba e mi ha salvato un po' quella roba lì, perché le robe che soffrivo proprio io, ma per il resto no, l'infanzia è stata felice. Cioè mi emoziono adesso quando le racconto, ma è una bella emozione quando penso a certe robe, proprio lì sono belle, sono dopo che sono arrivati i guai. Erano gli anni in cui ai bambini non si raccontava la verità, specialmente se era una verità difficile da ascoltare. Ma io, come tutti i bambini, ero una spugna. Comunque avevo capito che qualcosa non andava. Avevo capito che papà non tornava. Avevo capito, ma non sapevo cos'era successo. Così nella mia testa io ho realizzato che mio papà era stato ucciso dai suoi colleghi. Cioè, l'idea che avevo avuto io all'inizio era che mio papà era stato ucciso, sì, dai suoi colleghi di lavoro. Soffrivo molto, specialmente gli anniversari o le cerimonie di commemorazione. A parte i colleghi stretti e gli amici, siamo stati abbastanza abbandonati. E in queste occasioni arrivavano tutti. Ricordo che tutti mi mettevano le mani sulla testa. Sentivo che fra di loro si dicevano «Povero Giorgio». E io, a furia di mani sulla testa e di «povero, poverino», mi sentivo davvero sfortunato. Anche un altro ricordo bello, in contrasto a questo, che in queste cerimonie, quando c'era Mario Calabresi, Mario Calabresi era quello che me le faceva svoltare, perché lui era già più grande. Non so se si era reso conto di questo mio disagio, di questa mia cosa, ma quando c'erano queste cose, quando lo incontravo, che non è successo tantissime volte, però io ricordo che quando lo incontravo mi faceva sempre quelle due o tre battute, quelle due o tre robe, mi smorzava la cosa, riusciva a tirarmi fuori da quel loop negativo che le mani sulla testa. Sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. Più delle virtù spesso sono i vizi a dirci chi siamo. Le ombre prima ancora delle luci. Per raccontarli userò il metodo che conosco meglio. Le storie. Linee d'ombra è il nuovo programma di Radio 24 che racconta i 7 vizi capitali attraverso le storie di vita degli ascoltatori. Se volete raccontare una vostra storia di superbia, invidia, ira, accidia, lussuria, gola o avarizia, non perdete tempo, scrivete una o due pagine e inviatela a lineedombra@radio24.it. Io sono Matteo Caccia e le racconterò ogni giorno alle 15 su Radio 24. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Vi stiamo raccontando la storia di Giorgio Bazzega, lo sentite, la sua voce è quella che parla direttamente a Mauro Pescio, che raccoglie questa storia per noi. Ecco, in questa puntata speciale di Linee d'Ombra stiamo ascoltando come Giorgio ci racconta la sua storia, la storia del figlio di una vittima delle Brigate Rosse, e ci racconta soprattutto come rabbia e vendetta spesso vadano di pari passo. Con mia mamma parlavamo pochissimo di quello che era accaduto. Lei era una donna di 28 anni, io un bambino di 2 anni e mezzo. Non avevamo gli strumenti per affrontare da soli una roba del genere. Avevamo la fortuna di avere una famiglia che ci ha veramente circondato di bene, ma anche lì nessuno in famiglia da noi aveva gli strumenti per aiutarci ad elaborare un certo tipo di dolore, per cui noi non ne parlavamo. Io ero profondamente ignorante e poi sono nato in un humus in cui la vittima, se prova rancore, fa bene. Cioè, quello che deve, il ruolo della vittima, quello che deve fare è provare rancore, odiare, a un certo punto far calare il perdono dall'alto per essere anche dei bravi cristiani, facendo però sentire l'altro un inferiore perché glielo fai calare dall'alto, e insomma tutte queste robe qua, per cui l'inizio è stato veramente difficile. Io ero veramente tanto ignorante. Per me il concetto giustizia era assimilabile al concetto di vendetta. Non è che giustizia e vendetta erano la stessa cosa. Oltre a questo, era anche profondamente ignorante riguardo le dinamiche della giustizia, del carcere, del recupero. Ignoravo del tutto che nella nostra Costituzione c'è un articolo specifico, il 27, che dice che la pena deve tendere al recupero della persona. Avrò avuto 13 anni. Eravamo in sala, io e mia mamma, seduti al tavolo quadrato. Stavamo cenando e guardando il telegiornale. Fu lì che sentii la notizia della scarcerazione di Renato Curcio. Curcio per me è sempre stato il vero responsabile della morte di mio papà. Walter Alasi aveva 21 anni, era un ragazzo. Curcio invece era un uomo. Era stato lui ad armare Alasi, era stato Curcio ad indottrinarlo. Lui lo aveva inserito nelle BR e voleva farlo diventare il numero uno a Milano. Walter Alasi, nella visione di Curcio, doveva essere la punta di riferimento a Milano. E per me era lui il vero responsabile della morte di papà, era Curcio. E per come la vedevo allora, era uno da chiudere in galera e buttare via la chiave. Poi, rispetto anche ad altri brigatisti, Curcio è uscito relativamente presto. E quando ho sentito la notizia della sua scarcerazione, mi sono sentito proprio pugnalato dallo Stato. Mi sono sentito tradito dallo Stato. Mi sono sentito come se lo Stato avesse mancato di rispetto a mio papà, come se l'avesse offeso. Da quel momento ho iniziato a maturare la convinzione che l'unico che poteva onorare la memoria di papà ero io. Soltanto io lo potevo e lo dovevo vendicare. A me è montata, da quel momento io mi ricordo, mi è montata una rabbia, ma anche fisicamente, è venuto un mal di stomaco che non sono più riuscito a mangiare. È da lì che ho iniziato io a essere aggressivo anche. Da lì mi rendo conto che se devo trovare un episodio, poi non è stato da un giorno con l'altro, però da lì è partita la cosa. Perché io che sono diventato veramente aggressivo è stato a quel momento lì. Call me up and I'll come over every single time. In your driveway, still alone, I'm trying to rewind. In your bedroom, in the dark, we play with old mistakes. After midnight, you're asleep, but I stay wide awake. Morning comes and we start over. Wish I knew this star to end. Per prima cosa dico a Dario, il mio migliore amico, che mi voglio vendicare. Ma anche lui ha 13 anni. Ci pensa come ci può pensare un ragazzino di 13 anni. Non poteva sapere lui che io facevo sul serio. E poi ho cominciato a ragionare su dove avrei potuto trovare gli indirizzi delle abitazioni di quelle che sarebbero state le mie vittime. Ma andiamo con ordine. E lì poi, una volta che mi sono trovato a cercare indirizzi, ho detto, ma perché li sto cercando? C'è un motivo se li sto cercando. È stata una roba molto anche confusa, anche perché poi dopo quell'episodio lì io ho iniziato a fumarmi le prime, canne, a fare le prime esperienze di sostanze. Nel mio quartiere, in Barona, a Milano, a 12 anni farsi le prime esperienze di questo tipo era normale. Non ci è voluto molto per finirci invischiato. La prima sigaretta l'ho fumata a 7 anni. A 9 anni io guidavo il motorino per andare a scuola alle elementari, con il figlio tossicodipendente della bidella. In tutto questo mia mamma si è accorta da subito che stavo manifestando un certo disagio, ma non sapeva come gestirlo. All'inizio, nei primi periodi in cui tiravo fuori una certa aggressività, lei insisteva a parlarmi di papà, di come era lui di carattere, di quello che si sarebbe aspettato lui da noi. Il problema è che io non ero pronto ad ascoltare queste cose. Ero troppo arrabbiato. Anzi, io più le ascoltavo e più mi arrabbiavo. In quel periodo mia mamma abbracciò la religione e io non l'accettavo. Mi sembrava una dipendenza più forte di quella in cui mi stavo infilando io. Ero convinto che abbracciando la religione lei avrebbe negato tutto il resto. Mi parlava di perdono, ma io sentivo che non era un reale perdono il suo e la vedevo come la buonista odiosa che voleva raddolcirmi. Infatti tutte le rare volte che ne parlavamo la mia risposta era: ma come cazzo fai a dirmi una roba del genere? Come fai a dire che papà sarebbe andato d'accordo con ste merde di brigatisti che lo hanno ammazzato? E mi incazzavo ancora di più, prima. Poi invece quando, dopo, sono stati i primi semi che mi hanno aiutato. Dopo, ma qui si arriva dopo. Però teneva l'effetto opposto. È stato allora che, oltre ad immaginare la mia vendetta, ho cominciato ad allenarmi duramente per portarla a termine. Il sentimento di vendetta era una cosa mia, privata, da non condividere. Ma è stata questa la benzina che mi ha portato a praticare prima judo, poi thai box e poi pugilato. Si chiude qui questa puntata speciale di Linee d'Ombra, quella del sabato. Vi ricordo che potete riascoltarla, potete riascoltarci quando e come volete in podcast sul nostro sito Linee d'Ombra, o meglio Radio 24, la pagina di Linee d'Ombra, oppure sulla nostra app, sempre nella sezione podcast. Oltre a tutte le puntate potete ascoltarvi anche questo piccolo speciale in cui riuniamo, raccogliamo tutte quante le nostre storie seriali. Grazie ancora a Mauro Pescio, grazie a Giorgio Bazzega che ci sta raccontando la sua storia di Ira. Ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.